piedi del Gran Sasso d'Italia ho accompagnato quest'estate già diverse volte il gruppo dei nostri chierici. Siamo saliti sopra una di queste pendici dove non so chi mai abbia potuto metterci piede. Era un valloncello, una piccola valle, tutta un fiore. E abbiamo detto, per chi il Creatore ha fatto nascere questi fiori? Che forse siamo i primi venuti qui, in questo angolo. Ma chi ha pensato che noi oggi saremmo venuti qui, a queste altezze, con questo caldo, a goderci questo spettacolo, quest'aria profumata, in quest'angolo remoto? Chi è che sarà mai venuto? Dio, in persona, Padre, Figlio, amore. Ah, ditemi voi, come sarebbe bella la vita se ragionassimo sempre così. Sì, anche il maltempo è organizzato da Dio, come la siccità. Noi diciamo anche a volte la troppa pioggia. Quando pronunciamo di queste sentenze, rischiamo di fare i buffoni, perché vorremmo dettare leggi al Creatore, insegnare a Dio come fare l'universo. L'ha fatto Lui. Tutto ha fatto a perfezione, senza esaurire la sua capacità di creatore, di perfezionatore, perché la mente di Dio non si logora come la nostra mente. Non si stanca l'intelligenza di Dio. Quando Dio ha fatto tutto l'universo, è ancora Dio. Noi quando abbiamo speso 4 soldi siamo in bolletta, ma noi? Com'è bello sapere che Dio ha organizzato tutto nella nostra vita. Attenzione, qui ci sono dei ragazzi, dei giovani. Sì, auguriamo ancora loro di sognare, ma a un certo punto noi non più ragazzi, oppure i ragazzi di un tempo, non sogniamo più e diventiamo realisti, concreti. Bene, la vita che cosa ci ha preparato? Sogni belli, festival, partite vinte, scommesse vinte? Ci ha preparato anche tante sorprese, vero? Anche la febbre, il mal di testa, la bronchite, qualche altro malanno. Ebbene, dovremmo allora disperarci? Qualcuno si arrabbia, qualcuno stringe i pugni, se la piglia con Dio, bestemmia. Ma perché? Perché così si lascia fare a Lui. A Lui la prima parola e a Lui l'ultima. L'ultima. Prendiamo dalle mani di Dio, dal cuore di Dio, tutto. Il bel tempo e il brutto tempo. La buona salute e i grattacapi, i fastidi e anche qualche malattia. Diamogli ragione sempre. Che parola fatidica è questa? Sapete perché noi non sempre siamo nella gioia? Giovani o adulti o anziani? Perché non diamo sempre ragione a Dio e vorremmo insegnargli a fare il creatore? Brontoliamo, ma Signore, questo universo com'è riuscito male? Chi credi di essere? Che hai tanto coraggio da andare a insegnare a Dio come doveva fare il manico delle ciliegie, come doveva fare i fichi d'India, senza spini. Accompagnato un gruppo di giovani nel 48, qui di Bosco, Chiesa Nuova, a Roma, per l'80° di giovani dell'Azione Cattolica, e qualcuno aveva mai visto i fichi d'India? Lungo le mura vaticane c'erano delle bancherelle dove vendevano uva e anche fichi d'India. E uno salta giù di corsa, ne prende un bel cartoccio e poi monta in tram, c'era il tram allora, e distribuisce i fichi d'India. E siccome nessuno l'aveva mai mangiati, non si è preoccupato di levarsi la buccia. Si sono messi a mangiare i fichi d'India con tutti quei spini che hanno, sapete bene che spini hanno, vero? Roba dell'altro mondo. E la gente rideva: oh Bauchi, avete mai mangiato fichi d'India? Bisogna pelarli, sbucciarli, altrimenti tutti quegli spini si attaccano al palato. E appena arrivati lì in piazza San Pietro, giù a bere acqua a quelle fontane, senza sapere se poi era potabile o meno, perché il palato era tutto bruciato da questi spini. E qualcuno dice: ma il Padre Eterno come mai ha fatto gli spini ai fichi d'India, mentre i nostri fichi di montagna non hanno le spine? Impara a stare al mondo. Ecco, non è una barzelletta. Impara a stare al mondo, perché il mondo te l'ha fatto Dio e l'ha fatto bene. Impara a stare al mondo.